il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi parliamo di un poeta, di uno scrittore, di un uomo particolare, di un'icona. Parliamo di Charles Bukowski. Vi consiglio di rimanere qui perché noi oggi parleremo di disobbedienza, di sguaiataggine, di scorrettezza, di sbornie colossali. Però c'è anche molto da commuoversi, perché non ci sono molte storie così dolorose e disperate come quella del nostro protagonista. Bukowski, a lui piace la vita per quello che è, anche quando è brutta. Non prende in giro se stesso e non prende in giro gli altri, perché a suo modo rispetta anche gli altri e il mondo. A lui piacevano le belle donne, soprattutto quelle con le gambe lunghe e sottili, però aveva anche un'attrazione per le donne ubriache, per la sporcizia, per le bocche sdentate, le pance flaccide, per le parolacce. Anche lui forse era bello, però aveva la pelle rovinata e le unghie sporche. Aveva un'unica passione, la scrittura. La scrittura di quella che viene facile e bene. Beh, amava anche l'alcol, si intende, ma più di tutto amava la scrittura. Scrissi la mia prima cosa su un quaderno di scuola. Trovai una penna e iniziai a scrivere. Riempii il quaderno di parole. Fu la prima volta che mi venne svelato questo meccanismo. Fu bello star seduti a scrivere sul quaderno con una matita. Scrissi senza interruzione. Mi sembrò una cosa piacevole e semplice. Per me rimane ancora una cosa facile e piacevole. Quello che dovrebbero dire e fare tutti, scrivere qualsiasi cosa per il piacere di farlo e non per i risultati che questo può portare. E infatti la scrittura ha fatto un regalo grande a Henry Charles Bukowski, uno dei pochi regali che ha ricevuto, perché per il resto la vita di Bukowski è stata poco facile e poco piacevole. Forse è proprio per questo che ha conquistato intere generazioni, perché in molti si sono rispecchiati nella sua arte, a sua volta specchio del suo dolore. Persone che ne hanno capito la poesia, quella profonda e disperata che è riuscito a esprimere con il suo stile inconfondibile. È una miscela perfetta, come ha scritto Adam Kirsch sulla rivista New Yorker. Questa miscela di vanto e di denuncia rispecchia esattamente la timidezza della poesia di Bukowski, che è al tempo stesso misantropo e cameratesco, aggressivamente volgare e segretamente sensibile. Aprile 1923, il sergente della Third United States Army Henry Bukowski, insieme alla moglie tedesca Katharina Fett, sta tornando negli Stati Uniti. Sono a bordo del piroscafo President Fillmore. Katharina tiene per mano il piccolo Hank, che silenziosamente guarda i gabbiani che volteggiano intorno alla nave in attesa degli avanzi di cibo buttati in mare. Hank è un bambino tranquillo, silenzioso, forse perché parla bene il tedesco, appreso dalla madre, e molto poco l'inglese. Per questo teme l'arrivo in America, è una terra che non ha mai visto. Ma non c'è molto da scegliere. Il padre ha prestato servizio in Germania per qualche anno dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, ma nella Repubblica di Weimar l'economia è allo sfascio. È difficile sopravvivere in un paese dove per fare la spesa servono milioni di marchi e perfino i dollari americani di Henry non bastano più a provvedere alla famiglia. È in questa Germania sofferente che nasce Heinrich Karl Bukowski. È il 16 agosto del 1920. Nasce nella cittadina di Andenach, vicino a Coblenza. Nasce di sera. L'aria è calda e serena. Vive in Germania fino a 3 anni, poi d'improvviso arriva il giorno della partenza. Insieme agli affetti e la casa, il bambino si lascia indietro anche il nome di battesimo, che viene americanizzato in Henry, da cui il diminutivo Hank. In America la famiglia Bukowski si stabilisce prima a Baltimora, nel Maryland, e in seguito nel 1930 in California, vicino a Pasadena. L'infanzia di Hank non è certo felice, il padre è spesso disoccupato, sono gli anni della Grande Depressione, la mancanza di lavoro lo indurisce, tanto da renderlo un uomo violento che trova ogni scusa per sfogarsi col figlio. Questo è il 2122 di Longwood Avenue, la casa degli orrori, la casa del tormento, dove quasi mi distrussero, ma non del tutto. Come vedete, sono ancora qui. Questo è il prato che curavo, lo falciavo in entrambi i sensi. Prima in questo senso e poi in quest'altro. E poi dovevo pareggiare l'erba con le cesoie. Se mi dimenticavo di tagliare un filo d'erba, venivo picchiato. Per un solo filo d'erba. One hair. Sia Hank che la madre erano talmente terrorizzati dal comportamento di Henry Senior che quando la scuola convoca Caterina per informarla che il figlio soffre di dislessia, la sua prima reazione è di paura. Paura per come il marito l'avrebbe presa. Il mio vecchio aveva una cinghia da rasoio che appendeva qui. La prendeva e mi ordinava di calare i pantaloni o i calzoncini. Io mi mettevo all'incirca in questo punto e lui iniziava a frustarmi. Non ricordo quante frustate mi desse, ma facevano male. Non so se erano 8, 10, 12 o 14. Ovviamente a 6-7 anni non riuscivo a trattenere le grida, ma verso i 10-12 anni iniziai a urlare di meno. L'ultima volta che mi frustò non gridai affatto, non emisi un suono. Immagino che lo terrorizzai, perché quella fu l'ultima volta. È terribile stare ancora qui a parlarne. E con l'adolescenza i problemi di Hank peggiorano. Alla timidezza e alla dislessia si aggiunge il disagio fisico per un'acne terribile che gli deturpa il viso. Le cicatrici gli resteranno per il resto della vita. Ha difficoltà a farsi degli amici, figuriamoci a trovare una ragazza. È in quegli anni che Bukowski inizia a sbronzarsi. L'alcol è l'unica cosa che gli fa smettere di pensare alla sua vita schifosa, anche se solo per qualche ora. Ma con tutto quello che gli capita in quel periodo, anche qualche ora di pace non è male. Le foto dell'epoca ci mostrano un Bukowski accanto ai genitori, è grande, grosso, impacciato, sembra già distante, è un solitario, evita anche le normali esperienze di ogni adolescente, evita i primi amori. Perde la verginità a 23 anni suonati e l'impresa non è di quelle che si raccontano orgogliosamente agli amici. Rimorchia una puttana obesa incontrata in un bar, sbronza fradicia come lui, se la porta in camera, conclude il suo dovere con fatica, poco entusiasmo. La mattina dopo l'accusa, forse anche ingiustamente, di avergli rubato il portafogli. Insomma, niente a che vedere con la poesia della prima volta. È un'esperienza che anni dopo descriverà come terribile. Tempo fa pensavo di essere troppo brutto per le donne. Poi ho scoperto che le donne sono molto forti. Se hai qualcosa di buono da dare loro in termini di emozioni, le donne sono molto forti. E a loro non importa se hai un solo braccio, se ti mancano 5 dita o se non hai più il naso. Per trovare il primo amore devi aspettare ancora un po'. A 25 anni, nel 45, incontra Jane Connie Baker, naturalmente in un bar. Jane ha 10 anni più di Hank, un matrimonio alle spalle, riesce a mandare giù più whisky di lui, ma lui la ama. Passano le giornate a litigare, a bere, a fare sesso. Jane va e viene, sparisce per giorni, torna per quel tanto che le permette di ridurre la casa e la vita di Hank peggio di un portacenere, pieno di cicche puzzolenti. Quando riparte, non si sa mai per quanto tempo e per dove. La storia devasta Bukowski più di quanto lui ammetta, ma il legame è così importante che quando anni dopo Jane muore nel 62, devastata dal cancro, dalla cirrosi e dalle emorragie provocate dall'alcolismo, per Bukowski è un colpo tale che pensa di farla finita una buona volta, ma c'è sempre qualcosa che lo salva dal disastro totale: la scrittura e il suo quaderno di appunti. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Henry Charles Bukowski, Hank per gli amici. o quantomeno per la varia umanità che lo scrittore incontra ogni sera nei peggiori bar di Los Angeles. Abbiamo parlato della sua nascita in Germania, del suo trasferimento traumatico in America e del rapporto pessimo col padre, trauma ancora più forte, quindi della solitudine e quindi della dislessia, dell'acne e quindi dell'alcol. L'alcol è come una sinfonia o come una musica classica. Non va usato come un tranquillante, ma per salire al cielo. Quando si prova dolore o si è sotto pressione. Il dolore e la pressione sono gli ingredienti costanti della vita di Bukowski. Gli anni 40 sono un periodo ancora più difficile per lui perché è giovane, prova a integrarsi, prova a essere come gli altri, ma non ci riesce mai. In una lunga intervista che concederà anni dopo alla televisione tedesca, confessa che dopo il liceo, dove non brilla per rendimento, prova a frequentare i corsi di giornalismo al college, ma non riesce neanche a laurearsi. Feci 2 anni al college, ma non combinai niente. Me ne stavo steso sull'erba e non frequentavo le lezioni. Non trovai un lavoro come giornalista. Mi dicevano, compili il modulo e le faremo sapere. Non era facile diventare giornalista. Decise lei di non diventare giornalista? Se mi avessero assunto, lo sarei diventato. Ma sono quasi felice che non lo sia diventato. Di che cosa avrei potuto scrivere? Abbandonato il college, Hank prova a fare qualche lavoretto, ma soprattutto ha voglia di andare via di casa e di esplorare il suo paese, di scappare. Parte come un vagabondo, cambia spesso, si ferma poco, vive come gli capita, dorme in camere d'affitto senza acqua calda, lavora quando può, fa letteralmente la fame. Mi trovavo dei lavori manuali che duravano un paio di settimane. Nel frattempo vivevo in una stanza poco costosa dove scrivevo a macchina. Mangiavo solo una tavoletta di cioccolato al giorno che mi costava 5 cent. Ricordo ancora la marca, Payday, che vuol dire giorno di paga. E quella era la mia paga del giorno, 5 cent. La cioccolata era molto buona, la mangiavo alla sera. Ogni morso era buonissimo. La cioccolata addolcisce in parte la vita di Bukowski, ma solo la scrittura la riempie veramente. Lui scrive tutti i giorni con un rigore altrimenti inesistente in tutte le altre sue faccende. È uno scrittore prolifico. Durante tutta la sua vita Bukowski ha prodotto centinaia di racconti e migliaia di poesie, ma per anni non ha alcun successo di pubblico. È strano pensando che oggi è letto da milioni di persone nel mondo. A quei tempi scrivevo 5 o 6 racconti alla settimana. Li spedivo ovunque, ma ritornavano sempre al mittente. Sono anni di frustrazioni, di dubbi, di depressione e in compagnia solo della bottiglia e della fauna altrettanto disperata che incontra nei bar. Una sera, mentre ero a letto, mi dissi, mollo tutto. Ma un'altra voce dentro di me disse, non mollare, conserva in te una scintilla e non concederla a nessuno, perché con quella scintilla potrai attizzare un grande incendio. Ma Bukowski non molla, non è il tipo, ha quel tipo di rabbia disperata che può diventare il miglior motore del mondo. In più lui si sente in credito, e lo è in credito per moltissime cose, non ha niente da perdere, fa già la fame, è solo, la sua vita è uno schifo, ha la faccia butterata e l'anima sbattuta come uno straccio, dentro se stesso 2 grandi desideri, o uccidersi o scrivere, e sceglie, come sempre, per fortuna, la scrittura. Il percorso per arrivare a casa era lungo. Ricordo gli alberi ghiacciati. Era inverno ed ero a St. Louis. La padrona di casa mi aveva spinto alcune lettere sotto la porta. Ne aprii una che diceva: il tuo racconto è stato accettato. Pensai, la scintilla che ho conservato ora ha una possibilità. La cosa buffa è che scelsero un racconto brutto. Beh, succede spesso questo. Il suo primo racconto viene pubblicato nel 1944, non sarà il suo preferito, ma è la dimostrazione che la scrittura è diventata per lui quel luogo magico dove intimità e chiassosa aggressività riescono a fondersi in un unico, semplice dialogo che può comunicare col mondo. O per dirla alla Bukowski, la scrittura deve venire fuori come uno stronzo caldo la mattina dopo una buona bevuta di birra. Falco e il Gabbiano. Henry Charles Bukowski è il simbolo di una generazione di persone che ha scelto di non stare con i vincitori, di non stare con i vuoti interpreti del sogno americano che ha bisogno di eroi. Bukowski è un americano che sta dall'altra parte, per questo lo adoro. È stato il simbolo di tutta quella gente più vicina ai vinti, più vicina ai diseredati. Ha avuto un'infanzia difficile, una vita da vagabondo, e la scrittura è stata sempre la sua salvezza, la sua unica valvola di sfogo. Finalmente, quando ha 24 anni, gli viene pubblicato il primo racconto e, come dice lui, neanche il migliore. È stanco della sua vita da vagabondo, torna a Los Angeles, che è l'unico luogo che sente veramente suo, dove, come abbiamo visto, di lì a poco incontra Jane Conley Baker. Resistono insieme 7 anni, anche se dire insieme, insomma, è un po' una definizione azzardata, visto il tipo di vita che hanno condotto. Dopo 7 anni la donna sparisce definitivamente. Dopo la rottura con Jane, Bukowski accetta un lavoro come postino, forse per dare qualche parvenza di stabilità alla sua esistenza. Resiste 2 anni e mezzo, poi rassegna le dimissioni e poi torna a lavorare. Ma col passare del tempo, l'alcol, il lavoro che odia, la frustrazione per i suoi scritti che vengono rifiutati hanno la meglio su Bukowski. Si ammala di ulcera e un giorno viene portato d'urgenza in ospedale per un'emorragia interna. È il 1955, lui ha 35 anni, sta rischiando seriamente di morire. In ospedale i medici gli parlano chiaro. Quando lasciai l'ospedale, un dottore mi disse: bevi ancora e sei morto. Vedi, spesso i dottori mentono. Sarei dovuto morire, ma non fu così. Mi pareva che mi fosse stata concessa un'altra vita. Quando fui dimesso, trovai un lavoro come camionista. Ogni sera bevevo molta birra. Mi comprai una macchina da scrivere e iniziai a battere sui tasti. Ma scrissi solo poesie e la prosa se n'era andata. The prose had gone somewhere. Quindi diciamo che non prende proprio alla lettera le raccomandazioni dei medici. Rimane a lavorare nell'ufficio postale per 15 anni. È un lavoro che odia, 15 anni in cui un genio come Bukowski deve consegnare lettere. Tutte le mattine si alza, beve il primo bicchiere di scotch, poi si mette davanti alla macchina da scrivere, comincia a pestare sui tasti fino a quando non arriva l'ora di andare a lavorare. Di solito si fa le notti, tanto comunque non riesce a dormire, smista centinaia di lettere che vengono consegnate la mattina dopo. Quando raggiunge sfinito il letto si addormenta solo qualche ora, perché il giorno dopo ricomincia il suo calvario. Poi un giorno arriva la proposta che gli cambia la vita. John Martin è un piccolo imprenditore nel settore delle forniture d'ufficio, è un collezionista di libri ed è innamorato delle poesie di Bukowski, a tal punto che è disposto non solo a aprire una piccola casa editrice, la Black Sparrow, per pubblicare gli scritti di Bukowski, ma addirittura decide di aiutarlo a lasciare il lavoro per mettersi a scrivere seriamente, anche a costo di mantenerlo tutta la vita. Mi disse: ti do $100 al mese per il resto della tua vita, che tu scriva o non scriva. Era un'offerta allettante. Forse non ci avrei pagato gli alimenti della bambina, ma l'affitto sì. La cosa mi diede speranza. È una scommessa che sembra una follia. In realtà Martin si rende conto ben presto che il potenziale di Bukowski è immenso. La sua vera natura era evidente per me. Non mi importava il suo lato negativo, ma quello che davvero valeva, la sua grandezza. La prima volta che lessi i suoi lavori pensai: è il nuovo Whitman. È l'uomo della strada che scrive per la gente della strada. This is the man of the street writing for the people in the street. E nel 69 Martin chiede a Bukowski di fare un passo in più, uno sforzo in più. Great, because sarebbe molto bello se tu riuscissi a scrivere un romanzo, perché i romanzi si vendono più della poesia. Ma mai pensavo che l'avrebbe fatto davvero. Iniziò a lavorare per me a $100 al mese il 2 gennaio del 1970. Mi chiamò verso il 25 gennaio e in tono sommesso mi disse: vieni a prenderlo. Gli chiesi: cosa? E lui rispose: il romanzo, quello che mi hai chiesto. E io dissi: ma come hai potuto scrivere un romanzo in 4 settimane? E lui rispose: grazie alla paura. Il libro si intitola Post Office. Non è la cosa più originale del mondo raccontare del proprio posto di lavoro, soprattutto se è un ufficio postale, ma nessun posto di lavoro viene raccontato come lo fa Bukowski, e lo si capisce fin dalla prima pagina, dalla prima riga, dalle prime tre parole: cominciò per sbaglio. Da qui il racconto continua, senza nessun compiacimento, con una lingua affilata, rapida, schietta, sempre velata di ironia, dove sembra poterci essere solo disperazione e miseria. Ma perché Bukowski ha mantenuto così a lungo un lavoro che odia? La risposta ha un solo nome: Marina, sua figlia. Nel 63 Hank incontra Frances Smith, detta Fensai. È una specie di hippie un po' bizzarra con la quale inizia a convivere. Per sbaglio e per colpa della insofferenza di Bukowski per i preservativi, Frances rimane incinta. Nasce Marina il 7 settembre del 64. Dopo la nascita della bambina, però, la convivenza prende una brutta piega, secondo quello che racconta la stessa Frances. Hank lavorava di notte e Marina non dormiva né di giorno né di notte. Neanch'io riuscivo a dormire ed ero immensamente infelice. Ripensandoci, la mancanza di sonno mi aveva reso quasi folle. Hank voleva che la donna in casa fosse felice, che cantasse in cucina. Non avevamo mai parlato della nostra situazione, fin quando mi disse: «Te ne devi andare. Per quello che posso permettermi, ti pagherò l'affitto». Non ci trasferimmo molto lontano, in modo che potesse vedere Marina. Bukowski è un padre affettuoso, anche se non è proprio presente, eppure dalla sua nascita Marina diventa la seconda ragione, oltre alla scrittura, per resistere ai grandi momenti di depressione e alle sue pulsioni suicide. Ricordo che dopo un pasto abbondante gli piaceva riposare. Io ero piccola e volevo giocare, e uno dei miei giochi preferiti era Batman e Robin, e lui diceva: «Ok, tu fai Batman, perché fa tutto lui, mentre io invece sono Robin, che non fa niente», e se ne stava lì a dormicchiare mentre io saltavo sul letto. Il secondo libro di Bukowski arriva 5 anni dopo il primo, si intitola Factotum. A poco si conquista un pubblico fedele, viene riconosciuto nell'ambiente, anche il grande poeta Lawrence Ferlinghetti lo invita nella sua famosa libreria City Lights, che è il punto di incontro delle menti più brillanti dell'epoca. Nell'ultimo anno la City Lights ha promosso alcuni poeti americani che possono essere considerati grandi scrittori, e attualmente Bukowski è il più grande. E così improvvisamente a 55 anni Bukowski esplode. La conseguenza è fama, soldi e donne. Diventa uno scrittore di culto, la gente lo ferma per strada, i suoi reading sono stippati di persone che adorano la sua ironia, la bottiglia sempre sul tavolo e il plateale momento in cui Bukowski li manderà tutti al diavolo. Le ragazze gli si offrono letteralmente, e un giorno John Martin trova 2 di questi esemplari proprio sulla veranda della casa di Hank. Andai a casa sua in Carlton Way, dove sotto il portico c'era un vecchio divano. Sopra erano sedute 2 bellissime bionde olandesi che aspettavano che tornasse a casa. Mi chiesero dove fosse e io risposi che probabilmente era alle gare e che dovevo incontrarlo alle 5. Mi dissero: «Oh, vogliamo vedere Bukowski!» Gli chiesi: «Perché?» E loro: «Per scoparlo!» Sono i vantaggi del successo, ma la verità è che Bukowski, dietro a quella scorza dura e all'apparente disinvoltura guadagnata nei peggiori bar di Los Angeles, è rimasto ancora l'adolescente timido che si muoveva tra i banchi di scuola a disagio. Le donne lo affascinano, ma non ha la pelle abbastanza spessa per prenderle, andarci e andarsene via. Non può fare a meno di aprirsi con loro, e ci rimane male quando le ragazze lo frequentano solo perché è famoso. A volte reagisce con violenza, questo lo spaventa perché vede in se stesso la cattiveria del padre. Era uno stronzo, era un codardo, ma il suo sangue è anche il mio. Talvolta mi sembra di essere stronzo come lui. A volte, quando litigo con una donna, so che mi sto comportando da stronzo e penso che sia colpa del sangue di mio padre che scorre nelle mie vene. Nelle mie vene scorre un sangue di merda. È una brutta sensazione. It's a bad feeling. Eh sì, così quando all'orizzonte compare la giovane Linda Lee Beagle, che è bionda, esile, salutista, buddista, lui ne rimane colpito e non la tratta come le altre. Siamo nel 76, 56 anni e Bukowski inizia a essere un po' stanco. E così con Linda nasce prima una amicizia cortese e dopo questa amicizia sfocia in qualcos'altro. Lo conobbi a un reading di poesia al Troubadour di Los Angeles. Ma stava ancora facendo esperienze con tutte quelle donne, quindi non avevo intenzione di diventare la sua fidanzata o niente di simile. Diventammo solo amici. Lui mi telefonava e parlava di tutte le sue donne. Col tempo diventammo sempre più amici. Le donne continuarono a entrare e uscire dalla sua vita, finché a un certo punto decise di aver fatto abbastanza esperienze. Fu allora che entrai in scena io, quando le altre se ne sono andate. E beh, spesso è così, per un uomo non è importante la prima donna che hai, ma l'ultima. Finalmente l'amore, quello vero, e Linda accompagna Bukowski negli ultimi anni della sua vita, dopo una lunga convivenza con interruzioni, litigi e riappacificazioni, i due nell'85 si sposano. Nel frattempo Linda riesce a cambiare in parte le abitudini di Bukowski, si trasferiscono in una comunità più tranquilla a sud di Los Angeles e a poco Bukowski inizia a bere di meno. Le sbronze non sono più all'ordine del giorno e nonostante la morigeratezza il suo mito resiste. In Italia il regista Marco Ferreri lo celebra con un film dal titolo tratto da una sua raccolta di racconti, storie di ordinaria follia, nel cast Ben Gazzara e Ornella Muti. Nell'87 esce invece Barfly, Moscone da bar, il film del regista francese Barbe Schroeder scritto da Bukowski. Lo scrittore avrebbe voluto come protagonista il suo giovane amico Sean Penn, ma la produzione gli preferisce Mickey Rourke nella parte di Henry Cinaschi, che è l'alter ego letterario dello scrittore. T'hanno assunto? No, mi hanno solo fatto incazzare. E un'incazzata non gli serviva. Vedi, questo è un mondo dove ognuno deve saper fare qualcosa. Io non so chi ha stabilito questa regola, ma ognuno deve saper fare qualcosa. Bisogna essere qualcosa. Non lo so, dentista, pilota d'aeroplano, spacciatore, portiere, predicatore, capisci? A volte, sai, mi stanco solo a pensare alle cose che non voglio fare, a tutte le cose che non voglio essere, ai posti che non mi interessa vedere, come l'India. Non voglio lavarmi i denti, salvare le balene, sono cose che non capisco. E tu smettila di pensarci. In fondo il trucco c'è. Basta non pensarci. Nell'89 Bukowski si ammala di tubercolosi, non può più bere, è più saggio. Quando nel 93 gli viene diagnosticata la leucemia, lotta contro la malattia, ma senza affannarsi troppo. Muore il 9 marzo del 1994 e Linda gli organizza un funerale buddista. Chissà se gli sarebbe piaciuto. Il suo ultimo libro è Pulp e tra i tanti personaggi deliranti che lo popolano c'è la signora Morte. Ed eccola là, sul divano davanti a me, la signora Morte. Non era mai stata così bella. Che bambola. Non ti lasciava mai nei pasticci, meglio dell'oro. Bene, questo era, o forse questo è, Henry Charles Bukowski, con le sue sbronze, con la sua volgarità e la sua sensibilità profondamente umana che nascondeva dentro di sé, che tutti però, per fortuna, possiamo trovare nei suoi libri. Nessuno come lui ha saputo dare un colpo d'ala, volare in alto, cambiare la sua vita in una maniera che ha lasciato il segno soprattutto in chi lo ha apprezzato e letto. E anche la sua fa parte di quelle storie di chi è riuscito, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute e risalite. Se volete mandare degli altri consigli affinché si racconti qualche altra storia che vi interessa, fatelo è al falcogabbiano@radio24.it o visitate la nostra pagina.